Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quando nella vita arriva il momento di dire ora basta, e come si fa a produrre un cambiamento significativo e stabile, soprattutto un cambiamento che ci aiuta a crescere, ad andare là verso il traguardo che stiamo cercando? Questo, cari amici, è il tema che trattiamo insieme oggi, e io vi lancio subito la sfida: siete riusciti a dare una svolta, direi proprio efficace, alla vostra vita? A che cosa siete riusciti a dire basta e a cominciare un nuovo corso? Ne parleremo insieme a tanti ospiti, uno in studio con me, lo conoscete bene, di casissima mi verrebbe da dire, Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Cadi a fagiolo perché il tuo ultimo libro si intitola proprio Ora Basta, pubblicato da Kowalski. Ma, caro Alberto, non avertene a male, perché io devo correre a salutare un altro ospite che ci aspetta in linea. Ha pubblicato anche lui un romanzo con Kowalski che si intitola Che giorno sarà, da cui abbiamo preso spunto per il tema di oggi. Saluto Enrico Ruggeri. Enrico! Buongiorno, buongiorno a tutti. Wow! Buongiorno. Buongiorno. Ecco. Senti, ma come ti musicista, cantautore, conduttore televisivo, scopritore di talenti, autore di saggi e ora anche narratore romanziere. Allora, Enrico, la tua è quella che potremmo chiamare una creatività infinita. Cosa mangi? Come fai? Intanto hai dimenticato calciatore. Calciatore! Ci tengo molto. Calciatore! Ci tengo molto. Il 30 giochiamo a Parma. La partita del cuore, insomma. Calciatore va detto. Calciatore, a che punto lo mettiamo dell'elenco? Se devo dar retta al bambino che c'è in me, ai primissimi punti. Senti, ma sei un calciatore bravo o un po', di la verità? Beh, te la cavi. È la cosa, a parte il lavoro, è la cosa che faccio più frequentemente. Gioco un paio di volte alla settimana, quindi sì, sono... Per essere compatibilmente con l'età e col fatto che non sono un professionista, sono bravo. Senti Enrico, entriamo proprio nella storia invece del tuo nuovo libro. Faremo una puntata proprio con la squadra del cuore, Enrico Ruggeri calciatore. Ma adesso io ti voglio come romanziera. Entriamo nella storia del tuo nuovo libro, Che giorno sarà? Tra l'altro faremo anche una sorpresa ai nostri ascoltatori. Tre di loro, proprio grazie a te, riceveranno una copia del tuo libro, Kowalski Editore. Però voglio avvertire i nostri ascoltatori che la consegna sarà una consegna a tempo, quindi chi tra voi ci chiamerà o scriverà la storia più originale o la ricetta per cambiare entro le 11.30 riceverà la prima copia, la seconda tra le 11.30 e le 11.45, e dalle 11.45 a termine del programma daremo la terza copia. Quindi cominciate a chiamarci, a scriverci, non smettete di farlo fino alla fine del programma, anche perché Enrico ci darà delle indicazioni. Il tuo libro parla proprio di un uomo che non riesce a dire e ora basta, e lo fa solo alla fine con un gesto clamoroso che non riveleremo mai. Esatto, ma sì, è un figlio dei nostri tempi, è un romanzo ambientato negli anni '80, ma credo sia ancora più attuale oggi. Parte da questo presupposto che Andy Warhol disse che ognuno ha un quarto d'ora di celebrità, ha diritto a un quarto d'ora di celebrità, ma non ci disse cosa succedeva dopo. E questa è la storia di un cantante che all'inizio degli anni '80 scrive una canzone di successo, ma una sola. Dopodiché, per le circostanze, perché non trova le persone giuste, perché lo imbrogliano, perché sbaglia canali, forse perché passa più tempo negli uffici dei discografici che non a casa a scrivere canzoni, forse anche perché è un mediocre, non riesce più a ripetere il suo successo. Però non riesce neanche a reinserirsi nella società, perché ha visto quanto sarebbe allettante andare su un palco, cantare le tue canzoni, firmare gli autografi, eccetera, e quindi non riesce a tornare al bar sotto casa dicendo ho smesso, e scende tutti i gradini che si scendono in questi casi in maniera a volte grottesca, a volte drammatica, a volte comica, con la consapevolezza che in questi casi si abbassa anche il livello della coscienza, perché è molto facile essere dei grandi uomini a cui tutti vogliono bene quando tutto ti va bene. Certo. È un po' più difficile quando il destino ti si ritorce contro. Lui quindi si sente anche un po' assolto, si comporta a maluccio, con le donne è un disastro, per esempio. Noi abbiamo letto il tuo libro e a cui mettiamo il nostro bollino blu, vero Alberto? Sì, assolutamente. Oh, grazie. Guarda che è un bollino blu che vale. Beh, sì, lo so. Lo sai, Senti, tra l'altro blu, azzurro, Marina da Milano mi scrive che di Enrico Ruggeri avete dimenticato di dire al primo posto interista. Chiudo, ne stanno già arrivando tantissimi messaggi al 349-238-6666. Noi andiamo a sentire un breve passaggio del tuo libro, lo ascoltiamo e lo commentiamo. Andiamo. Eccomi a casa, da solo, per la prima volta in vita mia. A guardare la stanza di mia madre, ad aprire i cassetti e l'armadio. Quante cose abbiamo che sono utili solo a noi, che hanno senso soltanto finché noi le usiamo o semplicemente le lasciamo appoggiate da qualche parte. Eppure non mi decidevo a buttare il ditale, i mozziconi di matita, i vasetti di crema aperti da chissà quando, un orrendo sasso dipinto da me in quarta elementare che lei usava come fermacarte, biancheria lisa, cappelli fuori moda, la vestaglia di un verde indefinibile, le pantofole che avevano preso la forma dei suoi piedi, gli occhiali. Non l'ho ancora fatto, ma un giorno prenderò una decisione in merito. C'era una nuova vita da affrontare. Dovevo calarmi in una situazione e celebrare una serie di riti quotidiani che avevo sempre disprezzato. Fare la spesa, anche se mi nutrivo per lo più di scatolette, ogni tanto cambiare le lenzuola, caricare la lavatrice. Enrico, ma questo Francesco Ronchi, perché non riesce a uscire dalla sua vita, che alla fine sembra diventata un po' anche la sua trappola, eh? È ingabbiato nel male minore, perché per lui, ossessionato dalla paura di essere mediocre e con il forte sospetto di esserlo in realtà, preferisce comunque essere quello che suona, anche se in un locale di quarto ordine, magari in un piano bar, magari costretto a cantare le canzoni degli altri perché nessuno vuole ascoltare le sue, però in tutti i casi lo ritiene sempre meglio che metterla sveglia e andare in un ufficio, e forse si crogiola un po' anche in quello. Lui beve molto, ma quasi per darsi un alibi, per dire se non avessi bevuto, se non fossi qua, se non certo. fossi là, forse ce l'avrei fatta, insomma. È un po' una situazione che, anche se con toni minori, con minore intensità, possiamo vivere anche noi, ciascuno di noi, quando si dice si incaponisce, no? In una situazione, poi non riesce a uscire, cerca tutti gli alibi per venirne fuori, ma non ha la forza. Alberto? Sì, io leggendo il romanzo di Enrico credo proprio di aver visto ben descritto un uomo la cui vita è in stallo e potrebbe dare un colpo di reni, potrebbe davvero inseguire un sogno sapendo che lui è l'artefice del suo sogno, invece sta fondamentalmente là dove lo mettono, e alla fine viene fuori effettivamente l'immagine di un uomo che non riesce a dire e ora basta a nulla, cioè va dove la vita lo porta, in una situazione di forte insoddisfazione. Secondo me è uno specchio davvero fedele un po' a quell'immagine di bamboccione che a volte ci viene raccontato in modo maldestro e che troppe volte è riferito male ai giovani, ai ragazzi, cioè questo è proprio un adulto che non si è incompiuto, perché è rimasto ancorato a un singolo episodio della sua vita intorno al quale cerca di costruire il progetto di un'esistenza, ma chiaramente è un progetto fallimentare. Qui dentro io trovo un insegnamento incredibile, se uno sta nelle prime 130 pagine del romanzo di Enrico ha una fotografia immediata e netta del fatto che la vita lo tocca abbondantemente. Francesco Ronchi in alcuni passaggi gli fa proprio vedere che ci sono delle svolte possibili, ci sono dei treni su cui lui può salire. La visita per esempio alla casa del fratello è davvero incredibile, lui tocca con mano, sperimenta la possibilità del cambiamento, sente che la vita è lì che lo sta aspettando, finalmente è arrivata un'occasione possibile per dire divento me stesso, e poi molla tutto e torna alla tranquilla e noiosa quotidianità. Aspettiamo le vostre storie all'800 24 00 24. Un libro sarà selezionato tra di voi, tra le telefonate che arriveranno tra adesso, ne stanno già arrivando sino ai mercati, e poi via via altri due. Ma Enrico, che cosa c'è di Enrico Ruggeri in Francesco Ronchi, e a che cosa tu sei riuscito a dire basta, invece a che cosa nella tua vita, pur volendolo fare, non ci sei riuscito? Cioè, trasmettiamo, uno scrittore trasmette qualche cosa di sé ai personaggi che descrive? Beh, naturalmente. Gli inizi vizi sono simili. Francesco Ronchi è un mio coetaneo. Gli inizi sono simili, temo un po' che sia la mia guardarmi al negativo, guardare la mia foto e metterla al negativo, una contro autobiografia, perché tutti, io di sicuro avremmo potuto diventare un Francesco Ronchi, perché a volte la vita ti si rivolta contro, a volte non fai una sufficiente autoanalisi, cioè credi di essere portato a fare qualcosa. Questo è un mondo dove apparentemente il successo viene distribuito un po' a caso, no? Poi in realtà se guardi le cose di 30 anni in 30 anni, di 20 anni in 20 anni, ti accorgi che non è così, insomma quelli che hanno qualcosa da dire in qualche modo sopravvivono agli altri, però apparentemente questo mondo dell'immagine televisivo ci fa assistere a scenari nei quali uno diventa famoso e non sai perché, uno diventa famoso e non ha talento, gli eroi di una stagione sono abbondanti, ce ne sono molti. Molto spesso, Alberto, questo lo chiedo a te, noi riusciamo a dire basta alle cose che ci riguardano, anche se con fatica, mentre quando siamo in relazioni importanti a volte non ce la facciamo. Questo è anche il senso delle ora basta del tuo libro, che è dedicato ai genitori, insomma, quando ci sono ad esempio i mezzi figli. Sì, a volte le relazioni vero, proprio Enrico? Ecco, diventa tutto più difficile. A volte le relazioni ci intrappolano in una situazione di stallo, per cui vorremmo essere diversi da ciò che siamo, vorremmo produrre cambiamenti, vorremmo in realtà andare incontro ad evoluzioni, vorremmo far evolvere le persone che abbiamo vicino, questo è molto importante con i figli, e invece non ce la facciamo, per cui per esempio, questa è una cosa che noi psicologi descriviamo molto bene, i figli a volte diventano dei piccoli tiranni nel tentativo di trasformare un genitore che sta lì, che è in stallo e non riesce invece a fare davvero la mamma o il papà, provano a provocarlo in tutti i modi possibili. Nel caso del mio libro, quando ho scritto, proprio quando è stato poi scelto da Daniela De Rosa, tra l'altro, il titolo E ora basta, l'idea era proprio questa, cioè che E ora basta è una frase di svolta, una frase di cambiamento che non nasconde il fatto che dobbiamo metterci in crisi, dobbiamo affrontare passaggi molto faticosi, a volte dolorosi, ma le trasformazioni diventano possibili solo attraverso la fatica. Ed effettivamente forse la malattia di Francesco Ronchi, il protagonista del romanzo di Enrico, è il non voler far fatica. Alla fine sta nel luogo dove si fatica il meno possibile. E noi invitiamo i nostri ascoltatori a capire, a raccontarci come sono cambiati. Parliamo di cambiamenti grossi, un cambio di lavoro, un cambio in una relazione sentimentale che era diventata un po' avvelenante, una relazione amorosa, amicale, ma anche piccoli cambiamenti quotidiani che possono aggiungere proprio una nuova vita alla nostra quotidianità. Abbiamo Gualtiero che ci chiama da Rimini all'800 24 00 24. Buongiorno Gualtiero e benvenuto. Buongiorno Nicoletta, ciao. Buongiorno a lei. Ci racconti? Ha una ricetta o una storia? Ma tutte la mia storia che è anche la mia ricetta, nel senso che io ad esempio ho fatto l'università quasi a 40 anni, mi sono laureato, quindi comunque c'è sempre la mia ricetta, è quella che c'è sempre un'opportunità di cambiare, indipendentemente dall'età. E però sempre essendo se stessi, perché secondo me spesso cambiare si dà per scontato che bisogna proprio stravolgersi come persone, no? E invece penso che cambiare comunque presuppone un conoscersi bene. È un'evoluzione, no? Sì. Non vuol dire cambiare proprio registro. Non dimenticare quello che si è, quello che si è stato, la propria storia, eccetera, eccetera. È proprio un'evoluzione. E vivendo, come ho scritto poi nel messaggio che vi ho mandato, sia con entusiasmo le novità che la vita ci propone, anche se a volte non sono poi così belle, non sempre. Bisogna saperle accettare. Gualtiero, grazie per la sua ricetta, la sua riflessione che vorrei condividere con Enrico. Sì, io stavo sentendo Gualtiero, ma anche quello che diceva Alberto Pellai. Aggiungo una piccola cosa: il problema è che ci sono gli altri, e gli altri già da bambini imparano immediatamente che uno dei meccanismi che più usati nella vita è quello di fare sentire in colpa quello che hai vicino. I bambini lo imparano immediatamente, no? Nel quello che Alberto diceva, il tentativo di condizionare i propri genitori nelle scelte, per cui spesso uno tenta di cambiare, quello che gli sta vicino gli dice: mi stai cambiando e mi stai facendo del male, e allora questo complica i rapporti interpersonali. personali e complica proprio l'evoluzione di ogni persona. Ti tagliano un po' le ali, insomma. Un pizzico di egoismo in questi casi è, secondo me, necessario. Ma credo che poi dentro a questo pizzico di egoismo probabilmente c'è anche la tranquilla sicurezza di sapere in parte chi si è e in parte dove si vuole andare, e questo di nuovo direi che è uno di quei problemi che Francesco Ronchi nelle prime 120 pagine del racconto di Enrico racconta, ecco, attraverso il suo andare dappertutto e non andare da nessuna parte. Enrico, il tuo libro può essere utilizzato anche e consigliato alle persone che magari in questa fase della vita stanno pensando di fare una scelta, impegnarsi, sopportare, se vuoi, una fatica che il cambiamento comporta. Tu a chi lo consiglieresti in modo particolare? Beh, sì, a queste persone. Beh, credo che questo libro abbia, come dire, due o tre strati di lettura. C'è anche la voglia di conoscere da dietro un mondo che è quello, diciamo, musicale, della televisione, che forse ha degli aspetti meno nobili di quello che traspare poi quando accendi la TV o quando vai a un concerto. Questo va detto. Quindi anche uno spaccato di un mondo che io conosco molto bene. Però sì, indubbiamente, insomma, se un libro può servire a qualcosa e se un mio libro addirittura può servire a qualcosa, probabilmente, ecco, quello di conoscersi bene e capire dove si può arrivare, quali sono le proprie potenzialità reali e operare di conseguenza, tenendo anche conto che, insomma, nella vita ci sono valori anche un pochino più profondi che quello di diventare famoso. Senti Enrico, scrivendo questo libro, alla fine ti sei sentito anche un po' cambiato? Ho provato un po' di solidarietà con il personaggio, umana di quello più di Pietas. Sì. Ci si sente cambiati, ma anche perché, come dire, ho imparato a scrivere un po' in corsa. Io avevo scritto molti libri di racconti, di poesie. Scrivere un romanzo è tutt'altra cosa, ecco, quindi sentivo l'eccitazione di cercare di imparare qualcosa mentre la facevo. Questo è una bella sensazione, soprattutto quando sei non più adolescente, diciamo. Abbiamo in linea con noi Danilo dalla provincia di Brescia, 800 24 00 24. Danilo, buongiorno. Buongiorno, piacere sentirvi. Grazie. E complimenti per i belli argomenti che trattate sempre. Questo in particolare mi ha stimolato a telefonarvi una volta in più. Bravo. Perché Danilo? Che cosa ci racconta? Perché ho sentito parlare di cambiamento, della necessità di fare fatica per trovare dei punti di miglioramento nella propria vita e fatalità, ma niente succede a caso, insomma. Sono impegnato in questi anni in un lavoro personale, supportato da persone molto serie in gamba, da un'azienda di formazione in particolare. Sì. E i risultati, insomma, si vedono facendo fatica. Qual è il risultato che le dà più soddisfazione, Danilo, rapidamente, prima dei mercati? Sì, certo, una ritrovata coerenza. Mi accorgo che, per esempio, il vivere di tutti i giorni ti sposta dagli obiettivi della tua coerenza personale, perché sei trascinato a destra e a sinistra. Parlavate, mi pare, all'inizio di trasmissione anche di come i figli possono diventare dei tiranni. Sì. Possono essere percepiti, poverini, come dei tiranni, che insomma, è una delle cose, insieme al lavoro, a tanti aspetti che ti spostano dai tuoi obiettivi, dalla tua coerenza, il ritrovare la propria coerenza personale dà una grande soddisfazione, dà dei risultati sia sull'aspetto personale, relazionale, di coppia, anche di genitore. Danilo, mi sembra soddisfatto. Enrico, Gualtiero o Danilo? Ma poi ce ne saranno altri due da scegliere, quindi invito i nostri ascoltatori a non perdersi d'animo, perché possono essere sempre selezionati. No, a me hanno ragione, non mi mettete in questa. Hanno ragione tutti e due, hanno detto due cose molto importanti, molto importanti. Allora, la scelta, mi sa che la parte del cattivo deve farla Alberto. Ci piace la storia di Danilo, che è fatta proprio anche parte di autoformazione, lavoro su se stessi, per cui riceverà il libro di Enrico. Enrico, ti vogliamo qua presto con noi in volentieri. Studio in carne e ossa? Volentieri, volentieri. Così noi ci diamo un po' di importanza. Bene. Un abbraccio Enrico Ruggeri, grazie. Arrivederci Alberto, arrivederci a tutti. Saluti. Prima di andare ai mercati vi ricordo il nostro appuntamento quotidiano con i consigli del nostro esperto, il Daily Lab, la nostra officina del benessere. Andate sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccate su Daily Lab e seguite i nostri consigli. Essere e benessere. La svolta, che cosa siamo riusciti a dire basta? Chiamateci 800 24 00 24. Enrico Ruggeri ha lasciato altri due libri per voi che potete, quindi mettetevi subito in contatto con noi, raccontateci la vostra ricetta, raccontateci anche la fatica che state affrontando e che cosa ha prodotto in voi il cambiamento. Abbiamo Fulvio dalla provincia di Genova, buongiorno Fulvio. Buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, io niente, facevo il direttore della comunicazione di grandi aziende, gestivo la pubblicità, il marketing per Telecom, per Team, per Viaggio, per Ferragamo, e a un certo punto con il mio compagno che faceva il direttore della comunicazione invece di tre, abbiamo deciso che lasciavamo tutto, abbiamo mollato tutto e ci siamo non ritirati, ma anzi ampliati, come dico io, a Camogli, sul monte di Portofino. Abbiamo comprato e abbiamo avuto la fortuna di poterlo fare una bella villa e gestiamo 6 camere, si chiama Villa Rosmarino, e facciamo gli albergatori. Facciamo quello che tutti sperano un giorno di fare e che, ascoltateci, si può fare. Cambia la vita completamente, cambia completamente non tanto le relazioni, gli amici e quant'altro, perché quelli li mantenete, ma soprattutto non hai più a che fare con bui uffici e con persone, scusatemi il termine, incazzate dalla mattina alla sera, ma ha a che fare con persone in vacanza che vengono per star bene, che tu cerchi di far star bene, e far star bene una persona, farla sorridere, perché ha mangiato bene, piuttosto che ha fatto un bel giro in barca, eccetera, è una gioia che nessuna azienda ti può dare. Fulvio, ci vuole coraggio e ci vuole anche una sicurezza economica. Assolutamente, infatti io ho detto che siamo stati fortunati, però dall'altra parte abbiamo fatto i nostri mutui, certo, abbiamo fatto le nostre cose. Qual è la cosa che le ha fatto dire quindi ora basta e passare dall'azienda a diventare imprenditore? Il fatto che vedevo che la comunicazione in questo paese, e lo facevo da, scusatemi, ma da primario, nel senso che sì, lo faccio veramente per le più grandi aziende italiane, la comunicazione in questo paese sta passando dei momenti di gravissimo problema, pesantissimi problemi. Non c'è rispetto per i creativi, non c'è rispetto per chi ha idee, non per me, io ero un manager, per cui sì, io compravo le idee, però mi accorgevo che molto spesso la crisi e quanto altro è successo ha fermato il coraggio delle imprese, fermato il coraggio delle aziende. Le aziende non vogliono più rischiare, vanno solo, esclusivamente, tranne rarissimi casi, a prendere e a comprare ciò che li rassicura. E qui, e rassicurandosi non si può migliorare. E da qui la svolta. Grazie Fulvio. Ci saluti Camogli. Maria Teresa da Bergamo, buongiorno a lei. Pronto, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Complimenti per la trasmissione. Io volevo raccontare la mia esperienza, nel senso che io insegnavo alla scuola di infanzia. Sì. E poi abbiamo cambiato casa per motivi, perché la mamma aveva una casa con determinate caratteristiche. Diciamo, caratteristiche, esatto. Non stava ancora male la mamma, aveva solo problemi di autonomia, però di leggera autonomia, diciamo. E niente, ho potuto fare la scelta economicamente tra lasciare il lavoro, seguire la mamma momentaneamente, anche poteva essere la scelta, e mi sono dedicata a lei per 5 anni. I primi 2 anni lei stava ancora bene, poi man mano ha avuto dei problemi più grossi, in pratica l'ho seguita fino all'ultimo. È stata una scelta spontanea, maturata proprio per l'amore per la mamma, diciamo, l'amore per gli altri ti porta a fare anche queste scelte potendo. Certo. Quindi si può cambiare anche per amore degli altri. Il cambiamento di Maria Teresa le ha imposto una molto importante in una scelta. Grazie Maria Teresa, buongiorno a Paolo da Piacenza. Paolo, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie, buongiorno a lei e ai suoi ospiti, l'argomento è interessantissimo. volevo così portare un po' la mia esperienza e penso quello che per me è stata anche la cura, poi fondamentalmente io provenivo da una famiglia modesta, oggi posso dire di essere una persona benestante, ricopro un ruolo di responsabilità di manager e quindi molto ben retribuito. Ma tutto questo è avvenuto attraverso un cambiamento personale. Io sentivo il suo ospite precedente che diceva che sta lavorando con dei formatori. Sì. Condivido pienamente, cioè oggi c'era stata questa frase che riporto, che è stata, come dire, magica per me, questo formatore che mi diceva: la differenza tra un vincente e un perdente, sì, sta nel fatto che i perdenti sanno sempre cosa fare quando le cose vanno bene. Quanta gente al bar sentiamo che dicono: ah, se vinco il Super Enalotto so io cosa fare. Certo. Bene, ma siccome il Super Enalotto è molto difficile vincere, o quasi impossibile, è importante saper fare anche nella normalità o quando le cose vanno come tu devi decidere che vadano. Paolo, quindi ci segniamo questa frase che mi sembra illuminante, Alberto, soprattutto per chi è ancora in quella fase in cui dice: mi butto o non mi butto, la differenza tra il vincente e il perdente. Trovo che sia geniale e tra l'altro la abbiniamo a un'altra frase che ci ha mandato un ascoltatore: siamo sempre impegnati a diventare qualcuno, ma penso che l'obiettivo fondamentale di un uomo è diventare se stesso. Evolvere, cambiare. In linea con noi abbiamo Walter Nudo. Walter, benvenuto. È caduto Walter Nudo, ma noi lo ripeschiamo. Intanto, Alberto, abbiamo tempo di selezionare tra gli ascoltatori e i messaggi che abbiamo avuto in questo secondo blocco. Sono state tutte storie molto potenti, ma direi che riconosciamo a Paolo il fatto che ci ha lasciato un messaggio davvero importante, cioè il perdente sa sempre cosa fare quando tutto va bene, il vincente è quello che trova una strategia anche quando le cose non vanno bene. Allora, vi do un suggerimento. Ho visto che Alberto Pellai è molto sensibile alle frasette. 800 24 00 24, un cambiamento e una ricetta. Meglio se è racchiusa in una frase, semplice e diretta. Abbiamo ripescato Walter Nudo. Walter, benvenuto, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo di cambiamento e a volte proprio un'evoluzione. Sì. Lei ha molto, molto stupito anche l'opinione. Non mi dia del lei, mi fa sentire vecchio. No, io ti do del tu volentieri, anche perché perfetto. Lo sono. Anche perché l'anagrafe mi dà questo privilegio. Tu hai raccontato proprio un cambiamento, un cambio di prospettiva di vita. Direi una evoluzione. Nel tuo libro, che si intitola appunto Alzato lo sguardo, il mio cammino verso la fede, in cui proprio sei rimasto tu ma con qualcosa in più, insomma. Esatto, io ho sentito prima che cadesse la linea, ascoltavo un pochettino e questa parola cambiamento è molto sentita, è molto nell'aria, però io sarei un po' attento a mettere usare la parola cambiamento. Io userei più evoluzione. Sì. Noi ci dimentichiamo che ci stiamo evolvendo, è in continuazione siamo esseri viventi che ci evolviamo. Esattamente gli ultimi 45 anni abbiamo avuto un'evoluzione che non c'è stata negli ultimi 450 anni, quindi è molto importante che noi ci rendiamo conto che siamo in continua evoluzione. L'essere umano ha una scelta, ha una caratteristica rispetto agli altri esseri viventi, che può scegliere come evolversi, e questo è molto importante: evolversi per il proprio bene vero, profondo, oppure scegliere di evolversi per altre cose che non siano per il proprio bene e seminare cose che poi raccoglie che non sono proprio buone. Quindi io credo che ci sia una scelta. Prima sentivo quel signore che è nato in una situazione, è cresciuto in una situazione non buona e ha fatto della sua vita una cosa buona. Ecco, lui ha scelto di fare una cosa buona della sua vita. Quindi tra un perdente e un vincente, io direi che un vincente sa scegliere per il suo bene. Il perdente no. Ora, non è senza giudicare, è semplicemente che noi ogni giorno facciamo tante scelte. In questo momento voi scegliete di stare in radio, io scelgo di stare al telefono e parlare con voi, nessuno ci ha costretto, nessuno ci ha puntato la pistola alla testa, quindi le scelte sono importanti. La cosa importante è scegliere bene. Cosa vuol dire scegliere bene? Amarsi profondamente, scoprire cos'è veramente, cosa vuol dire amarsi profondamente e poi scegliere in base all'amore. Questo vuol dire scegliere bene. Bisogna, non è sempre facile, bisogna crescere, evolvere, ascoltarsi. Walter, fermiamoci un attimo perché abbiamo da ascoltare le informazioni sul traffico. I nostri ascoltatori li abbiamo invitati proprio a raccontarci, meglio se con una frase, che cosa significa per loro cambiamento, evoluzione, come dici tu, trasformazione, la cosa che hanno tolto o aggiunto nella loro vita e che li ha resi diversi, migliori. Anche se Isabel mi scrive: ma chi è così presuntuoso di definire un'altra persona un perdente? Nessuno ha definito perdente Isabel, è il nostro ascoltatore che raccontava appunto, ci faceva parte di una frase che gli aveva detto il suo life coach: vincente e perdente, una differenza. A tra poco. Essere e benessere. La svolta, che cosa ho detto basta, come è cambiata la mia vita, qual è stato il percorso che mi ha permesso di migliorare, di evolvere, come ci racconta Walter Nudo, che è in linea con noi. C'è ancora un libro che Enrico Ruggeri ci ha lasciato per voi, Che giorno sarà, Kowalski Editore, quindi 800 24 00 24, il pensiero, la ricetta, la storia che volete condividere con noi e che parla di un vostro mutamento, di un vostro cambiamento, di una vostra evoluzione. Marco dalla provincia di Cremona, buongiorno a lei, grazie. Buongiorno, innanzitutto vabbè, complimenti perché è una voce che trasmette proprio dolcezza. Grazie Marco, mi è arrivata una cosa esattamente opposta da Simona, quindi mi tira su, grazie. Tante teste, tante idee. Marco, grazie, mi dica. Niente, io praticamente ho alle spalle una storia, un rapporto passionale con l'eroina e la cocaina, l'ho avuto per parecchi anni. Sì. Finché non ho trovato una compagna con cui sono stato per 5 anni, diciamo che per 4 gliene ho combinate di cotte, di crude, tra tradimenti e bugie per continuare con il mio vizio. Poi dopo, nell'ultimo anno, quando veramente ho rivisto le mie priorità, mi ero deciso a smettere, m'ha lasciato, e quindi mi sono ritrovato senza compagna, sì, in una situazione comunque di fragilità, perché stavo smettendo quella che era l'occupazione principale della mia vita. Ho perso il lavoro, perché facevo un rappresentante, certo, e con la crisi ho perso il lavoro. Rispetto a prima, quando magari alla prima difficoltà avrei trovato l'alibi per andare e tornare a farmi, adesso ho più consapevolezza di me e mi sono detto che chiunque penso se lo debba dire che mi meritavo qualcosa di più dalla vita, perché c'è già tanto male, tanta tristezza in giro così, e penso che chiunque debba evolversi e cambiare in meglio, perché la vita, visto che è dura, ci deve qualcosa di più. Non bisogna sopravvivere, ma bisogna vivere. Marco, io la ringrazio per aver condiviso con noi la sua storia e vorrei commentarla rapidamente con Walter prima di salutarlo. Walter, Marco è una storia coraggiosa, mi ha colpito molto. Innanzitutto volevo dire che Marco, io volevo ringraziarlo, ok? Volevo ringraziare perché hai messo a disposizione di tutti quanti la possibilità che scegliendo si può star meglio, scegliendo per se stesso, scegliendo per il proprio amore, amare se stesso. Tu sei arrivato a un punto in cui hai detto: io posso meritare di più dalla vita, hai deciso di scegliere qualcosa che ti facesse star bene, hai iniziato ad amarti, hai capito che tutto quello che facevi prima non era per il tuo amore. Ma noi abbiamo questo meccanismo strano dovuto alla società, da dove cresciamo, eccetera, che forse a volte non ci viene insegnato che forse noi non meritiamo amore, con una serie di cose, genitori, eccetera. Tu sei riuscito a un punto, nel pugilato si succede questo, che quando sei all'angolo e l'altro pugile ti picchia, tu hai due scelte. Io ho fatto il pugile, te lo posso dire: o le prendi o non le prendi, o decidi di non prenderle. E tu sei la dimostrazione che a un certo punto hai detto basta. Capisci? Per amore e per te stesso. Quindi grazie Marco, tu sei l'esempio. Io ho avuto molti amici che si drogavano, si facevano eroina, cocaina, alcol, di tutto, e so che cosa vuol dire farsi, e so che cosa vuol dire uscirne. Quindi tu hai una grande forza e spero tanto che tu questa forza qui la dimostrerai, perché il tuo esempio deve essere un esempio per tante altre persone e soprattutto la trasmetta agli altri. A Marco io darei il libro che Enrico Ruggeri ha regalato a me personalmente, e quindi Enrico so che sarebbe contento, quindi rimane comunque ancora un'altra copia. Walter, che dire, io vorrei averti qua una volta, anche la redazione, devo dire, le mie colleghe mi hanno detto ma vieni qua Walter Nudo, ho detto no al telefono, e devo dire che la parte femminile della redazione ha detto peccato, torni, vieni? Non lo so, vedremo. Vediamo. Vediamo. Dai, vediamo. Grazie io Walter. Invito veramente le persone, io, lasciami dire, ti prego una cosa, invito le persone a cercare, oggigiorno siamo in un momento difficile, molto difficile, forse più difficile che il secolo abbia visto, perché non ci sono guerre eppure stiamo male, quindi non riusciamo a riconoscere veramente il carnefice di tutto questo. Ebbene, cerchiamo di amarci di più, non amare un l'altro, amare noi stessi, cerchiamo di avere le nostre più, sentire le più le nostre esigenze, da lì troveremo l'amore, e lasciamelo dire, la forza la trovi dentro di te, la forza la trovi dentro Dio. Questo è quello, Marco è riuscito a far questo perché ha trovato l'amore, e lì è Dio, quello è Dio, e solo così tu ti puoi rialzare. Grazie a Walter Nudo per essere stato con noi, buonissima giornata intanto. Anche a voi, anche a voi. Grazie, 800 24 00 24, a Marco ho dato il mio libro personale, ci sono sicuramente degli altri ascoltatori che vogliono intervenire. Alberto, intanto che dalla regia ci passano gli ascoltatori, possiamo leggere qualche messaggio o fare un po' come facciamo sempre il punto della situazione? Intanto diamo il... Ma è questione di crescita di vita spirituale, ma quando una persona percorre una vita in un certo modo nel bene e nel male, per lui va bene perché non capisce che la crescita è un'altra, ma per lui va bene così. Pino, questo è quello che ci scrive. Il concetto è proprio crescere, non significa secondo me trasformarsi, fare passaggi, fare fatica, e la storia di Marco è esemplare nella puntata di oggi. Fondamentalmente è un insieme di consapevolezza e volontà, e questo è quello che serve per dire ora basta se volete dare una svolta. Abbiamo dato i libri a chi ha chiamato all'800 24 00 24. Voglio dare l'ultimo libro ad Anna Maria che ci manda una frase: dobbiamo essere migliori non degli altri ma di noi stessi. Grazie ad Anna Maria, che riceverà a casa il libro regalato da Enrico Ruggeri, Che giorno sarà, Kowalski editore. Grazie a voi che siete intervenuti e ci avete seguito, buonissima giornata, noi come sempre ci sentiamo domani. Ciao Alberto, grazie. Ciao. Essere e benessere.